Ora è tutto finito, gli esami, i pensieri, i problemi, i pianti, i sorrisi, le nottate passate sui libri a studiare e dormire. Questa era la mia vita ormai finita. Da piccolo e da grande il pannolino e le mutande, ora sono più cresciuto e non ho più paura di cadere in questo vortice chiamato bocciatura. La mia vita è come un'avventura, è difficile lasciarvi però ora è troppo tardi, tanti amici straordinari ed è triste non potervi vedere più. Tranquilli, non è pianto ma il mio occhio luccica sempre di più. La mia vita è come una corsa ad ostacoli nella quale io non mi fermo mai, neanche nei più grossi guai, e non voglio rinunciare ad un traguardo da tagliare. Ma io voglio continuare la mia corsa contro il male per capire se posso ancora volare. E volerò, volerò, dove? Volerò, volerò, come? Volerò, volerò, dove il vento e il cielo mi vorranno portare. Volerò, volerò, come? Volerò, volerò, dove? Volerò, volerò, come un uccellino impara a volare. Wow, wow, wow, wow. Mi ricordo i momenti in cui il professore mi sgridava e io sorridendo avevo la mia mente incendiata dalla grinta e da una fitta bufera di rivincita. Io non ho paura, anche se so che bella dura, devo rimanere calmo e non pensare a studiare. Però da un momento all'altro una scintilla in me è pronta a scattare. Ma io voglio continuare la mia corsa contro il male per capire se posso ancora volare. Non ce la faccio più, voglio rivivere, voglio volare e so che lo farò. Non ce la faccio più, voglio rivivere, voglio volare e so che lo farò. Volerò, volerò, dove? Volerò, volerò, come? Volerò, volerò, dove il vento e il cielo mi vorranno portare. Volerò, volerò, come? Volerò, volerò, dove? Volerò, volerò, come un uccellino impara a volare. Ma io voglio continuare la mia corsa contro il male per capire se posso ancora volare. Volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò, volerò.